Tette, i migliori eventi selezionati da Radio Wombat che si svolgono negli spazi autogestiti fiorentini. Si inizia da lunedì, cioè stasera, con la proiezione di Essi Vivono presso le officine cinematografiche CPA Firenze Sud. Aperitivo alle 19, cena alle ore 21. Essi Vivono, in lingua originale They Live, è un film del 1988 scritto e diretto da John Carpenter. Si va direttamente a mercoledì 3 aprile, cambia ritmo, trash in Morgagni, c'è la festa di studenti di sinistra, dei collettivi di studenti di sinistra, Rosso Malpolo, Codice Rosso, ARC, quindi festa in Morgagni. Giovedì 4, La favola delle grandi opere presso lo spazio Inchiostro, fa parte di un ciclo di incontri. Giovedì 4 aprile alle 17.30 si parla del sistema industriale delle grandi opere, costi e benefici con Giorgio Cremaschi. Lo spazio Inchiostro è situato in via degli Alfani al 49R, dietro la rotonda Brunelleschi per intendersi, e tutto questo è per portare una contronarrazione di quello che fanno le grandi opere. Stesso giorno invece al studentato autogestito PDM, cena di solidarietà agli anarchici sotto processo, dalle ore 19, chiacchierata sulla situazione dei compagni, e 20.30 cenone solidale, il menù è pasta al sugo di melanzane, peposo o sformatino veg di Novoli, piselli, acqua e vino 6 euro, quindi benefit per i compagni in carcere, Pasca, Giova, Gespe, Liberi. Venerdì 5 c'è la festa universitaria in Brunelleschi, in piazza Brunelleschi dalle 17, naturalmente è organizzato dal collettivo Crisis, il collettivo degli studi umanistici e della formazione. Si inizia appunto alle 17 con un live painting nel chiostro, per proseguire dalle 23 musica fino a notte inoltrata con la Romola Sound System, Loose and Proud Sound System. L'ingresso naturalmente è libero, cocktail, shot, birre, panini a prezzi popolari. Stessa sera, venerdì, Smash Sound Fest volume 2 al CSA Next Emerson in via di Bellagio. Il programma è questo: ore 18, presentazione di Cobane Calling con niente proprio di meno che Zero Calcare. Dalle ore 20, aperiscena, e dalle ore 22, concerto di Nido di Vespe, Trash Grind da Lucca e Balls of Fire Punk Rock and Roll da Firenze. Sempre sabato, sempre Smash Sound Festival volume 2, sabato questa volta sempre al CSN Next Emerson in via di Bellagio, dalle 16.30 allenamento aperto di box popolare, alle 18.30 siamo state in Siria del Nord perché vogliamo la rivoluzione. Sono le compagne fiorentine della delegazione inviata da InfoOut nel Kurdistan iracheno. Alle ore 20 c'è una pizzata benefit, alle 22 live concert No White Rag, che è uno street punk da Bologna, CZB, che è punk da Imperia invece, e C4 Combat Rock, loro arrivano, pensate un po', dalla Sardegna, gli Schwatch, che arrivano da Berlino, anche loro punkettoni, e infine il Planton HC, bellissimo, che sono invece di casa, da Sesto Fiorentino. Sempre sabato 6, come abbiamo già detto precedentemente con i diretti interessati, Cesare li incamicia alla Polveriera. Vi leggo un po' l'evento: dalle 21, anche se l'abbiamo già detto, dalle 21 Polveriera Spazio Comune, via Santa Reparata. Praticamente, questo è quello che scrivono l'incamicia. Praticamente ci hanno detto che questo bello spazio comune chiamato Polveriera, dove tra l'altro hanno suonato tutti i migliori gruppi del mondo, potrebbe essere presto sgomberato, e quindi ci siamo detti: suoniamoci, noi così vediamo se ci sgomberano pure a noi mentre cantiamo cacca. Curiose? Noi sì. Si esibiranno Cesare, un cantante incredibile, uno strumentista fuori di testa, una valletta cubista trasformista gitana Vukumpra, gli aperitivi della Polveriera, un gruppo di nani da giardino, la maestra di matematica delle elementari, un vombato nel cerchio di fuoco, pizze, salami e fiche, Picchetti, La Celere, Valentina, Greta, Antonello e Angiolina. Per noi tralasciamo qualsiasi commento. Sempre sabato al CPA Firenze Sud, Spinner Tribute Unity Session 2019, e per questa sessione siamo lieti e onorati di ospitare al CPA Firenze Sud i Mystical Power. Ci faranno sentire le loro produzioni, si accompagnati al microfono da Youth Man. E tutto questo da un'ora che non ce lo ricordiamo, Comunque, ma ce n'è comunque basta andare a vedere, tutto. Tanto è sempre esatto. Tutto facile. Ci piace, sempre tutto. Sabato, perché tanto non c'è nulla a fare a Firenze. Blocked Box, presentazione di Zapruder, del numero di Zapruder sulla logistica allo spazio YAM dalle 18.30, la presentazione di logistica, flussi e conflitti. E infine, sempre sabato, nell'ultima occupazione fiorentina che ci mancava, che non aveva. Insomma, si parla di l'occupazione di Via del Leone, che dalle 19.30 Trash Music Only Pumpy DJ Set, via un aperitivo, ma in grullo style, con Pumpy, also known as the President Amateur LA Trash Music, dalle 19.30. E il benefit, naturalmente, per l'occupazione di Via del Leone, che è situata in Via del Leone 60-62. Ottimo, chiudiamo qua, da quanto ho capito. Chiudiamo, vero? Invece con domenica 7, okay, presso domenica il CSA Next Emerson in Via di Bellagio. Abbiamo la milonga, la matinée di Tango Sognato, inizia alle 16, finisce alle 20.30 e è musicalizzata da Peter Garba. Adesso possiamo per notazione obbligatoria andate a cercarvi sul sito del CSA Next Emerson. Evviva, ciao a tutti. Ciao a tutti e tutte. Rassegna eventi.